aumenta qualcosa. Perché sono comportabile. Sì, ma attaccateli a me che non puoi modulare per arrivare qui con un portatile, cioè, ti ascolto un basso. Sì, lo so. Aspetta che lo stacco e attacco l'altro, vediamo un pochettino se mi ricevi meglio. Ma poi devo. Beh, capo di morto, sì. No, sono qui, ti ascolto, stavo lavorando a cosa. Ok, adesso già ti sento, ora non ti sento. Mi sentirai anche bene. Perfetto, già, ti sento perfetto. Papagama. E tu che appare che sto uscendo, capito? Sto uscendo qualcosa adesso, con 23 canali. Che non sente bene già? Sì, non va bene. Tranquillo. Ma quale 23 canali? Mica. Oh, sono il primo. Sono la di Mario. Oh, sono il primo, si chiama. Quello che poppa il microfono, il tunnel, cioè è confondibile, è meglio dell'MB anche. Tutta la roba di Mario, no? Come? Cioè c'è tutta la roba che aveva Mario, ma... No, il microfono non era di Mario, il microfono questo è il mio tunnel. Ma anche Mario ce l'aveva il tunnel, questo ce la dovrà avere ancora Maria. Sì, c'è Maria, mi sembra che ce l'ho, sta pure vendendo, mi sembra. E quello di Mario era buono, mi ero bollisce a voce, c'è ancora. Sì, beh, sono noi tunnel più 3, escono tutti bene già. Per esempio, di tunnel più 2, chi non lo sa, dei signori che vede i tunnel più 2, ne sono stati fatti due tipi. Per esempio, io ne ho uno che monta un transistor e che c'ha il circuitino attaccato alla capsula, però ne ho anche un altro che ha due transistor e c'ha il circuito nel collo del microfono. Oh, vabbè, comunque la resa è la stessa. No, la resa, l'altro è più potente, lo devo finire l'altro già, perché l'altro la fermo da tanti anni e ce l'avevo conservato da mamma e capito, e un altro ce l'ho in giro di quei microfoni che l'avevo dato, se questo lo modula più tanto, e ce l'ho ancora me perché gli avevo prestato, andava, guarda, alla grande, questo lo attaccava alla, io ne avevo due, lo attaccavo al Pony 23 canali da ragione padre, quello che c'aveva tipo la sintonia della radio, che poi io ce l'avevo e l'ho regalato al mio amico del maresciallo che è in Friuli. E niente, già, ti dico che c'avevo una radio possente, quel microfono quando modulava, che sembrava che uno ci aveva 100 watt sotto nell'apparecchio, ho fatto un'altra linea di me, sono detto, e il microfono tuo, ho detto che è proprio potente già. Poi avevano fatto un altro tipo, quello è preciso identico, già. E però quello lascia il circuitino attaccato alla capsula, invece l'altro no, c'è un circuitino verticale, c'è nel collo del microfono. Ma come circuiti sono uguali, così? Sì, come circuiti, però la differenza del primo tunnel, capito, infatti ho già negli schemati, quello lì non me lo trovo, nello schema c'ho gli schemati del tunnel più e quello schema non c'è, il primo monta invece di un transistor ne monta due. Quindi è più potente. Sì, però è da mettere a posto, non c'ho le capsule, infatti me le hanno chiesto, non le do perché ne ho due di scorta, hai capito, le ho trovate, perché il microfono stavo mettendo a posto quello già all'epoca, poi te l'ho detto quando ci siamo trasferiti, Babbo non voleva attaccare niente, non voleva di antenna perché io avevo il vizio che stavo sempre sul tetto, non ne andava mai bene niente e non me ne ha fatto mai attaccare, quindi la roba l'avevo in soffitta sempre dentro la scatola. Adesso ti stai sbizzarrendo, adesso che sei sposato ti stai sbizzarrendo. Sì, ma c'è freddo qui, c'ho una cuffia, stasera non c'ero molto, sì, ero qui, voi sapete, mi sono anche addormentato stasera, capito, perché sono rientrato tardi questa mattina e capito, poi sono andato da Claudio a portare l'Europa, capito, e niente già. questa festa com'era a Uri? Sì, a me siamo arrivati con Claudio lì, cercando, ma io pensavo a quelle cose che fanno in pleno nei paesi, no? Quindi tutto ti si aveva fatto, a un certo punto, ma so se me ne vado a casa se la piglia. Invece mi ha detto il mio maestro di organetto che si è manifesto nel bar che si è vicino al mercato, piglio l'alfa, il fuori di fuori e il piombo lì. Il manifesto c'era, poi c'era attaccato quest'altra roba, che c'era questa specie di ristorante che poi non è stato mai autorizzato, già li danno così in gestione a matrimoni, a cresime, a battesimi. Morale della favola, hanno fatto questo menù, hanno fatto, che non era proprio grande menù, si pagava 15 euro a persona, hai capito? E vedere questa roba fuori dissi, il coso è bellissimo, però non è autorizzato, e l'ho fatto a questo comitato della Forza di Santa Venturia che ha organizzato questa cena per venirci gente per buscare su della festa, e poi l'ho trovato io e Ottavio. E se poi cosa ci fa? Io ho detto, pensavo che era una manifestazione, ormai già c'è, ho detto paghiamo questo 15 a testa a Claudio e rimaniamo lì. Hai capito? Però già non fa più di notte a uscire, io proprio ne sto risentendo. Tua moglie non ci ha voluto venire? Meno male già, perché era una cosa, ti ripeto già, pensavo a una manifestazione come fanno qui, quando in carrera, fanno anche qualche volta qualche tassinista, qualche cosa che fanno da mangiare, come si fa la provo, come sono una roba del genere. Invece questa roba era pagamento, a cui dice, beh vabbè, ho pagato, però già, lo sai cosa è capitato lì. Come sono entrato, mi stavano tutti guardando, c'era il vecchio Cristal che modulava con me 35 anni fa, che adesso in pensione lavorava alle ferrovie della Sardegna. Poi c'erano amiche mie che hanno qualche anno in più di me, che venivano al club lì, che c'era un club che si parlava tra giovani. E ho incontrato perfino i miei maestri supplenti che avevo in prima elementare, che erano lettissi, e altra gente che mi conosceva. E diciamo che la serata già è stata... sono stato bene, però qualche vino era buono, io ho bevuto qualche bicchiere in più. Oh, non ero ubriaco già, non ero né a mal di testa perché il vino è sano, infatti mi ho fatto male. L'indirizzo da questo signore, il corno del cellulare, che adesso vado prima di Natale e lo compro già, hai capito? E così in riferma siamo rientrati, che erano le 4 del mattino. Allora, tuo figlio si è divertito o si annoia? No, già si diverte già perché sta Claudio di Greffa, Claudio proprio, cioè ci sta proprio a pennello quando esco e si diverte. È più aperto lui come carattere. Beh, ma con Ottavio, quando mai tu non sapevi che Ottavio doveva Solarini? Non siete più organizzando assieme le cose? No, perché lui stanno con la macchina sua, che quando passa in tiro, già io non scendo più, perché anche vuole ha detto che quando fa dei locali, capito, perché mi sembra che entra l'alzato, io già di queste cose non gliele chiedo. Me l'ha detto per caso, a Claudio, il suo maestro di organetto, a Claudio gliel'ha detto, ha detto non potete mancare con le... Ma minimamente sapevo che questa roba era organizzata così. Ma io vado solo in estate alle feste di piazza, quando c'è il serpiglioso, quando c'è l'impianto luce, non la può gara già più di stare. In estate, hai capito, lo posso fare a una certa ora, a rientrare, c'è caldo, tu vuoi quello che vuoi, ma sono, diciamo, in inverno. Come stava dicendo Spalvero, io dice la serata da stare in casa, anche perché sono anche raffreddato, mia, no? che sono dal giorno che stavo murando quella posta del garage, capito? C'era freddo, non sono perfetto, insomma. Ho capito. No, pensavo che tutte le serate con di Ottavio si organizzassi tu, che eri tu il manager di Ottavio, invece adesso si sta facendo tutto da solo, lui. Sì, perché no, ho comprato già altre due casse maneggevoli, le casse. E qui hanno fatto un bello spettacolo, ma non, niente, già l'estate si può fare. Poi io oggi sono tutto quanto il giorno che non sono in forma. Mi stavo addormentando, ero qui, voi stavate parlando e io mi stavo addormentando dopo pranzo. Qualche cosa c'era anche più di 10 minuti addormentato sul tavolo e niente. Sul tavolo? L'inferno c'è per stare al caldo, adesso tutto quanto la dolore addosso, soffro di reumatismi, capito come andavo in moto, non sono perfetto insomma. Sì, chi è perfetto? È perfetto, tutti soffrono di reumatismi, tutti si addormentano, siamo tutti uguali, là. Magari eri stanco da ieri e ti sei addormentato per quello, poi noi ti abbiamo conciliato il sonno, dove sei? Ok, no, come si chiama già poi, io ho abituato a alzarmi alle 6 ogni giorno, con la ciò quantato, alle 6:30 ero gira a gira e mi sono alzato, poi avevo l'appuntamento con Claudio, lì a Piazza dei Segni, adesso sono partito, Claudio non era neanche arrivato, non era ancora, ero un po' in macchina ascoltando la radio, e niente, poi è arrivato Claudio, 5 minuti e poi sono rientrato e niente. Ho fatto il fuoco, ho fatto e queste belle cose, me ne sono salito dove sono le radio, hai capito? No, sono un po' raffreddato, già, è bello, prima mi piaceva, quando avevo i ragazzi che erano piccoli andavo, c'era Babbo Natale, a Sassari, li portavo a vedere quelle luminari, adesso non da più grande gire. E adesso quest'anno c'è una cosa da vedere, cosa li fai vedere? Perché volendo non c'è nulla, è una povertà unica, non ci sono i luminari e tutto quanto, si vede che è un altare di quelli molto poveri. No, non è già neanche un altare molto povero, che bene o male finanziariamente già lo posso, però già lo sai qui cos'è, da quando è morta mamma è morto tutto, non c'è più quell'armonia, hai capito? Diventiamo seri, diventiamo... Anzi, a mia moglie gli ho anche detto, gira gira ci riusciamo e andiamo al cenone dove c'è gente, lì però ne ha voglia, qui là, giusto per stare... Siamo già quattro gatti, siamo diventati, sempre al Natale siamo sempre con la lacrima nell'occhio. Ma infatti vi dovete svagare, non è che anche a casa era così, quando c'era mamma radunava tutti a casa sua e tutti si trovavano lì, a volersi perché uno non ci stava tutta la sera, però almeno a cena eravamo tutti insieme, poi facevamo la tombolata eccetera eccetera. Adesso noi a Gotusuio, cosa vuoi fare? Nessuno organizza, nessuno... ho provato a organizzare io un paio di volte, sono tutti impegnati, quindi si abbigliano tutti i luci. No, anche qui è così, no, io diciamo che con mio cognato non mi è legato, capito, lui è un funzionario della banca, è sempre un gradino più alto, capito, dalla prima volta che l'ha portato, io sono una persona semplice, io non glielo mai, diciamo, la porta mai bussata, già, hai capito, prima mamma però, come stai dicendo tu, alle feste sì, ci univamo, c'era anche la tombolata, queste cose già, allora si trovava nonno, capito, veniva, diciamo, i miei cugini che erano attaccati, capito, la sua figlia sorella di mamma, morto nonno, già lì si è creato un malumore per i beni, per queste cose, le famiglie si sono divise, non diciamo da colpa mia, perché a me già non me ne è fregato nulla, però ho detto, mettetemi d'accordo, tanto ancora a me la viva mamma, io non potevo pretendere niente, io già mi stavo occupando questa casa dove abito e niente, già là sono successi i casini e poi niente, poi non è morta mamma nel 2010, ancora capito papà. Rimane, sì, qui viene alle feste, però già non è più come prima, già. Noi addirittura a casa di mamma invitavamo anche quella signora di fronte, che era vedova, per non lasciarla sola, la facevamo venire con noi, facevamo Natale insieme anche a lì. Infatti sì, perché ma noi molte volte anche ci prendevamo la macchina e andavamo che l'anno scorso è morta la zia, la moglie fratello di Babbo, quindi anche lì già, diciamo, non, l'armonia è finita. Purtroppo le cose belle finiscono sempre, ma bisogna sempre rinnovarle, cercare di trovare un modo per colmare il vuoto, ecco. Già, lo sai, perché la famiglia quando è piccola, capito, è quella, non puoi andare a cercare altre cose. Noi quando eravamo piccoli c'era questa sorella di nonna, quando ammazzavano il maiale, tutto il parentato, c'erano 4 giorni di festa già, tutte le famiglie eravamo, quei tempi non tornavano più già, e adesso nel mese di prima di novembre si faceva questa festa ogni anno, tutti quanti indistintamente, capito, la famiglia, ero piccolo, vero, c'avevo, ero elementare ancora, e ci divertivamo con i nostri cugini e queste cose già, però poi ognuno già quando si sposa prende la sua via, hai capito? Adesso ho visto uno di questi miei cugini, abita a Muro, non ci c'è, ne ho due che abitano vicino al campo sportivo, proprio le figlie di questa zia, ha detto già, non ti fai mai vedere, te sempre, siamo a Muro, lui, già, ognuno ha gli impegni suoi, hai capito? Già, non è più come prima, quando si sposa uno cambia tutto. E già si può trovare il momento di, diciamo, per svagarti un po', dai, non dico in settimana, ma almeno la domenica che non si lavora, il sabato che tu non lavori, vai e organizzati un pranzo, una cosa, già è bello avere la porti anche con il parentale. Dico la verità, qua a casa ogni tanto ci sono amici, cosa, non disdegno di questo perché mi diverto anch'io, sto bene anch'io, mi piace la compagnia e via. Non si fa sempre o pizzata o vedendo i busoli, o facciamo una mangiata di panini, quelli che compriamo, insomma qualche cosa, oppure compriamo la carne di cavallo, ci facciamo i panini con la carne di cavallo, con le salsa rosa, patatine, carne di cavallo, eccetera eccetera, per stare in compagnia. Sì, quello già non è per mangiare, perché riusciamo a mangiare, ma diciamo bene o male ognuno, hai capito, un piatto di cosa ce l'ha, hai capito, nel paese di Natale anche il più povero che ci sia, hai capito, per il giorno la tavola è sempre ben immandita, hai capito, proprio per la compagnia già molte volte, hai capito, uno si sceglie gli amici, i parenti, hai capito, poi perché stanno facendo anche queste giornate, lì cosa trovano a trovare a casa, stanno piovendo, insomma ero anche trattenuto lì a cogliere il mercatino, anche per distrarsi a piazzare i segni, hai capito, adesso ci vado con mia moglie per fare delle compere, visto che questa roba mi sembra che sia permanente per tutte le prese, così è già un sbaglio. Il sabato e la domenica lavorano. No, devo comprare cosa, perché c'è lì, io ho già questa frutta e verdura, hai capito, vado, mi l'ho mandata, auto compra mandarini già, limoni, sembra fanno limoni, ne ho mangiato uno, gli altri ci sono tutti, lì ho se compro qua devo mangiare una roba aspra, deve essere dolce, e anche come si chiama, l'altra volta ho comprato questi finocchi, erano già, non vado, lì c'è di tutto, trovo la roba fresca, sicuramente la portano dal mercato, ho capito, in giornata, e così mi faccio la spesa. E poi per la carne sto decidendo quest'anno di andare da qualche pastore già a comprare l'agnello, perché in macelleria ci sta circolando molta roba di continente, e per, diciamo, avanzarci non ne compro la macelleria quest'anno. No, io abbiamo comprati dal pastore 2 agnelli e un porcetto, abbiamo preso e niente, di uno l'abbiamo già colto, di agnello, ce l'abbiamo già mangiato, c'erano degli amici a pranzo, l'abbiamo tolto fuori, l'abbiamo fatto, e il porcetto e l'agnello ci sono rimasti gli altri. pastore conviene, e conosceva il cugino di mia moglie, conosceva il pastore, siamo andati insieme, ne ha preso due lui, di agnelli, due per l'amico, e ne ha preso un bel lotto. Sì, io molte volte andavo su quando andava mia moglie a trovare la madre, però adesso è capita che dalla posta lì e poi c'è il rischio che mi beccano l'agnello in macchina senza il timbro, senza il passo di qua. Però ti dico già, quando ho portato agnelli da montagna era una squisitezza. E sono così, non me la voglio rischiare già, non me la voglio rischiare, però ci sono queste persone, e combinare quelli che ho venduto la campagna, che sono pastori, senz'altro stavo parlando con mia moglie a cena che me lo faccio portare da loro, ha detto che me lo regalavano, ma io regalo non voglio niente, cioè vogliamo che sia del pastore, che sia di cui il padrono, ma che viene già il camion da continente e scarica, chissà dai noi rovini, e magari gli nostri ce li portano fuori. L'ho visto io, ero fermo alla capitaneria, l'altra volta stavo dovevo scaricare una pedana di acqua, è passato questo camion francese, con le scritte francesi, era tutto pieno di maiali vivi dentro. Sì, perché poi magari li macinano qua, ma vanno per provengono questa roba. Io ho visto anche già una volta, notte inoltrata, ero al televisore, ho visto anche quando macinano questa roba, che cosa che pensavo per non mangiare più nulla. No, magari sono buoni lo stesso, ma li portano ad allevamenti di quelli dove stanno chiusi, danno mangimi per ingrassare, li buttiscono a mangimi, capito? Mentre invece maiale sardo mangia avanti, mangia tutto, ed è più buono. Perché quello lì già, il maiale prima veniva allevato in casa con gli avanzi e diciamo l'agnello nostro mangia erba, hai capito, perché c'è il pascolo, se il pascolo è buono si apporta anche la carne, ma adesso vediamo cosa fare, non è che sono mangione io già, però per la tradizione si compra, poi ci sarà anche altra roba, tipo mi piacciono molto i calamari, mi piace gamberi, non le compro, già lo sai che ogni volta che mangio gamberi io e Claudio siamo a prurito già, ma ti dico che sono due giorni. E allora ci avete allergie ai crostacei, non è toccare più, allergie ai crostacei quella lì. Sì, ogni volta, perché andavo ero così, ho tomato, ma come stavo, ci sta a me, li avevamo ricomprati, li abbiamo, la stessa cosa, quasi sulle gambe, io e Claudio, tutti e due a prurito, ma a prurito anche fastidio, mi dava anche fastidio, già. Poi una volta sono andato a prenderne uno dentro la vasca da bagno, era questo qua, e si grattava come una scimmia, faceva anche ridere, ma stava impazzendo da qui, c'era pieno di brugole, di cose, aveva mangiato qualche cosa e gli ha fatto male, l'aveva portato in ambulanza all'ospedale, ma si grattava tutto, si è messo anche in mezzo all'acqua per essere ripassato. Sì, cose buone, l'energia è una cosa brutta già, e anche questo coro che stavo comprando molte volte non mi salivo al discount, questo qui non ho bello già, non le torno a bene, anche quello lì non era tanto, capito, roba buona, e non le ho tornato a comprare. Vabbè, i negozi lasciano sempre il tempo che trovano, ma non è che ci arrivano da Chilivani, dal macello di Chilivani, gli agnelli e cose, sono agnelli sardi, giusti perlomeno. Poi questa amica comunque mi ha detto che lavora a Milano in un centro tipo la SIACA, dice che dalla Sardegna li mandano gli agnelli, poi loro li rinviano di nuovo in Sardegna e li vendono a prezzo loro. Capito, del traffico di roba, e io già ripeto, alle feste uno lo compro sempre, sia a Pasqua sia adesso per Natale, però quanto, anche se spendo, ho detto in più, però voglio mangiare roba buona, voglio mangiare, hai capito, poi la carne già, lo sai cos'è, quando ne mangi una volta poi, hai capito, diventa un po' di stufa proprio le feste, e noi diciamo c'è anche quello con le lenticchie, facciamo quello zampone, tutte queste belle cose, i polpi, mi piacciono le salate, hai capito, queste cose qui, potremmo dire gli antipasti, e, insomma, le cose tradizionali del Genoa, anche la colatella, hai capito, l'ho fatta al forno, non so se voi la fate così, io la so fare benissimo con lo spiedo, poi le metto, diciamo, le budella, proprio la filo, è una cosa bellissima, Io la cosa, la colatella la faccio, o in tegame con le cipolle e il vino, oppure se è cordula, se è legata come la cordula, la faccio svolentare un po' e poi la faccio con i piselli. No, ma questo io già, nello spiedo ci metto tutte le frattaglie, il cuore, fegato, tribolante, su tanta lingua la amo su. Poi la roba la faccio molte volte e la faccio fare come se chiedo tu con gli integami, con le cipolle, però sarei sempre mangiando della stessa maniera. Ma anche la cordula dei coro so fare bene, la so filare benissimo. Io non ho visto in macelleria filate male, per filare la cordula c'ho una mano già, mi ha imparato uno di Tiesi a filarla, guarda, c'ho una mano che c'è una roba e coi piselli c'è poco buona già. Già lo so, faccio anche io così, già. A me piace molto la testina, l'agnello, la verità anche nel porcetto, ma di più dell'agnello, le testine mi piacciono, e anche il zattarino. No, io le testine non le mangio, Claudio le mangia, Claudio mia moglie, io mangio, ma lo sai dell'agnello, lo zancone mi mangio, e qualche volta, qualche pezzo nel costolo e poi l'altro, diciamo molte volte già, se siamo in pochi, capito che non c'è babbo, hai capito, la coscia la lasciamo, mia moglie la fa a pezzi, e lei quella lì va fatta con olive sempre, per non farlo sempre arrosso. Sì, si può fare. È una coscia della pecora, lo spiego, per mangiartela. Sì, me l'hanno fatta mangiare i miei cognati, sì, è molto buona, diciamo che sardone ruine, poi quella roba lì. O sempre, però diciamo che adesso già come appetito sto diminuendo, anche prima ci facevamo anche le salsicce in casa, non se ne ha più voglia già di mangiare, le compro da questa macelleria, sono molto buone da Ussi, perché a Claudio le piace, hai capito, a Gattogiorno gli ho pigliato due cosci, ho pigliato e così già i piedini li facciamo, i piedini di agnello, e queste cose che si fanno per le feste. E come tutte le case, anche qua li facciamo, piedini di agnello. E mia moglie sa fare molto bene, si sciolgono in bocca quando li fa. Benissimo, piccante al punto giusto, eccetera, eccetera. Per l'agnello mi piacciono molto. Ma io dell'agnello, sai cosa mangio? Mangio la testa, compreso l'occhio, mi piace anche l'occhio dell'agnello. La testa completa, la codina, le zampe, i piedi dell'agnello mi piacciono molto lo stesso. E poi gli interni, tipo il rene, il cuore, tutta quella roba lì. Oh, già sono buoni, già. Oh, io anche mi compro anche quei calamari, però quelli grandi già, quelli piccoli si restringono, li imbottisce di lardo, gli prezzemolo, il peperoncino, e al forno, poi con la colla di limone, ma dico, al forno sono la fine del mondo già. Guarda, se sono piccoli non le compro, vogliono enormi proprio perché poi si restringono e quelli piccoli poi non ci rimane nulla. E il calamare di piedi, si tagliano a pezzi i tentacoli, eccetera, eccetera, si mettono dentro, già non so se si fanno così. Però la morte del calamaro per me è fritto, non vi ne, appena fritto, mangiato caldo, se è freddo non mi piace più, ma mangiato caldo è buono, è dolce dolce, specialmente se è fresco, è di brutto, No, non sai cosa ti dico già, hai ragione, io molte volte se ci rimane freddo perde tutto, io non so dove andavo già quando ero ragazzo, non so se tu ci sei andato, una prima delle poste lì, in via Brigata Sassari, c'è c'era un coso lì, non so che via è più, la via che c'è il tabacco e poi c'è una fiusa a sinistra, c'era un coso che faceva panini con calamari all'epoca, non mi ricordo ma con chi era questo. Beatrice. Mi sembra proprio di sì. Appena. Sì, sì, ho capito, faceva anche panini, questa roba. Sì, andavo lì, andavo e allora ero di buon appetito, ero, tre manco li vedevo già, però va bene, capito, bevevo roba alcolica, tipo Coca-Cola, allora non ero abituato, però tre panini alla grande me li mangiavo. Quando si è giovani si ha più fame, si ha più voglia di mangiare, cosa, dopo cali un po'. E bei tempi, quando si mangiava a profusione. Io, guarda, la cosa che mi piaceva di più a me, i panini, ero molto, diciamo, mi accontentavo di molto poco. Il panino caldo, appena sfornato, con la mortadella dentro, era il massimo per me. Noi andavamo quando ero giusto già lì in via l'Italia, c'era proprio quello, faceva proprio i panini per tutta la scuola, poi c'era anche la casa del pane, però non le facevano i panini imbottiti, quella era scendendo in via Nola Bona, in via Mendola, sembra che quella sì, che sia via Mendola, e lì mi compravo il pane all'uva, mi compravo proprio i panini con salame, andavo in via l'Italia, c'era anche un bar vicino lì, hai capito, e ti dico già che ero di buon appetito, adesso invece non c'è verso, sembra già che mi voglia mangiare chissà che cosa, poi quando ce l'ho in mano la roba, no? Mi stasera ho fatto scendere tre pizze già e ne ho la metà l'ho lasciata. Vuol dire che non è... Cioè lo sai, si chiama aperto il mercato a Sassari, il nuovo mercato. E dove già? Dove c'era l'altro, dove si entrava per entrare, dove si entrava dalla parte dove c'era la frutta da prima, te lo ricordo? Sì che me lo ricordo, quindi salgo da corso trinità, così è. Esatto, c'è un caseggiato bianco quello lì, hanno fatto tutto su un piano, c'è pesce, frutta e verdura, formaggi, salsicce, di tutto dentro. Grazie che me l'hai detto, perché io pensavo che quella roba lì non l'aprivano più, grazie che me l'hai detto già, capito, perché il pesce di città mercato non è che trovi anche lì molte volte, hai capito, poi a una certa ora gli abbassano anche il prezzo proprio per sbarazzarlo e ho trovato sempre roba fresca lì. Tu dovevi vedere la giornata che c'era già nel giorno dell'anno aperto, sarà avanti mi pare, sono andato a vederlo io. Tu dovevi vedere la gente che c'era, non c'era posto a muoversi. Sì, perché lì già c'era anche la colla, l'ho comprato anche un maialetto una volta, che aveva come si chiama di so che da là sopra, c'erano anche i macellai, mi ricordo. E ci sono anche adesso, solo che sono tutti su un piano, prima erano in due o tre piani, adesso è tutto in un piano, la macelleria in fondo, poi come entri cioè, ci sono tutti i pesci vendoli, poi giri verso destra e ci sono tutta la frutta e verdura, in più quello che vende i formaggi e le salsicce. Sì, tutto in cue controllando, tutto in cue. Hai capito, per il cenone con le cose che c'è in buona già. Con cose buone già, io da quando hanno cambiato in cosa oggi non sto più mangiando cose buone. Che quelle che stanno facendo adesso sono tutte cose spagnole, quelle stoppose. Ma lo sai, ho comprato una lettina che proveniva dal Veneto, delle quali erano buone già, capito, quelle erano buone da Chioggia mi sembra, o comunque dal Veneto, e quelle erano buone, però quelle di Arborea, di neanche quelle di Olbia non sono più come quelle di una volta già. E perché sicuramente Olbia hanno fatto un furto grosso, hanno rubato un bel di cozze, non lo sapevo. No, non lo sapevo già, anche perché il giornale le sto comprando poco, qui non si vede più neanche Sardegna 1, prima si vedeva, nei video in Sardegna 1, i video in sta superando l'unica che ha dato queste repliche di collassare, infatti un po' stavo guardando stasera questo programma con Andrea Pintore, ma poi da un certo punto l'avevano, ma tu la ricevi video di Sassari? Sì, sì, ma sì. Sì che la ricevo. E io qui a Pallecono però non si vede già, io ho il TV Sante, non la ricevo. Io sì, la vedo benissimo, sul canale 10. Canale 10, boh, ma è chissà due. E ho fatto un sacco di volte, ho fatto quella ricerca, al coro, sì, tutti quanti i canali, si vedeva Sardegna 1, adesso neanche Sardegna 1, l'ho ridettato, un sacco di volte l'ho ridettato. E non ho trovato che l'hanno messo a pagamento questa roba, no? No, no, non è cattivo, io vedo tutto. Vedo quello, Sardegna 1, Antenna 1, Antenna 1, boh, mi hanno deluso, non danno più telegiornale, boh. Ma come lo ricevi, tramite parabola o tramite antenne? Tramite antenne. Antenne. Io non ne ho parabola. No, non è per quello. No, io già ho la parabola che riceve i programmi di, si chiama TV Sante, ricevo il programma del digitale terrestre, ricevo, più gli altri che si riceve con la parabola, diciamo, normale. Però bisogna, con le antenne, allora bisogna scegliere nuove, nuove, già le avevo staccate perché i programmi della RAI, già a una certa ora non hanno mai migliorato il segnale, qui è zona d'ombra, abbiamo telefonato un sacco di volte, quindi qui non si vede, ho detto, con le antenne, nonostante già che la buonanima del signor Vittorio mi aveva dato le antenne migliori che aveva con amplificatore, a una certa ora di sera svaniva il segnale, si vedeva con effetto radio, come è sempre stato, la RAI non ha mai migliorato il servizio qui con le antenne. Noi l'unica cosa, la volta avevamo fatto una colletta, avevamo messo noi un ripetitore a Orsino e si vedeva bene, però poi da quando quel ripetitore non l'hanno più manutenzionato, già che eravamo puntati all'imbara, il segnale qui almeno dove abito io arrivava scarsissimo, non solo in casa ma anche gli altri vicini che si sono aumentati. Ma il ripetitore è costa, chi è che c'è? C'è preso questo onere di pagare un ripetitore? Sì, è sottoscritto con, allora sto parlando che ero ancora a scapolo, sto parlando dell'82, io e altre due persone siamo andati in giro per il paese, abbiamo fatto un acquisto proprio per mettere il ripetitore lì, perché l'avevano messo in prova proprio, ha detto mi servono comprate e riceveva specchio, anche ci avevano detto che antenne mettere, tutti avevamo messo le antenne, cioè ce l'aveva fatto, ci aveva stato la prima di pagarlo già, ha detto se lo volete, ha detto noi lo lasciamo, ha detto adesso in prova, non so per quanto tempo, se no poi lo ripiamo. Abbiamo fatto l'acquisto già e l'avevamo acquistato, però il comune pagava solo la luce e poi non ne ha più manutenzionato, hai capito? E quindi è andato poi a farsi benedire, è andato intanto nel frattempo erano uscite le TV, la parabolica, hai capito? La gente se ne è fregata, però con le antenne aveva risolto il problema. Probabilmente voi perché avete la montagna di fronte e non arriva il segnale. Ma è stato sempre così già, lo sai che io mi ricordo quando ero piccolo, babbo stava sempre sull'antenna, ma non babbo anche gli altri, perché vedevamo la televisione con effetto mefe, tutte ci rovinava la vista con i televisori bianco-nero prima, anche poi eravamo passati alla televisione a colori. E capito, noi siamo stati lì prima ad avere la televisione a colori e l'aveva comprata babbo, anzi mamma, perché noi la volevamo e non è che babbo era, non ne aveva nessuno, aveva d'accordo, poi mamma l'ha convinto e aveva comprato questa Rex, la televisione, però si vedeva sempre male già per Fiat, che c'era uno scarso segnale di antenna, nonostante che c'erano gli amplificatori e tutte queste belle cose. E così avevamo fatto questa acquisto, ma poi con il meritore a Usino e allora si vedeva a specchio già. Aspetta. Quindi adesso non lo vedete bene, non avete problemi anche adesso con la parabola? con la parabola io già ho questo TV Sat, mio comprato, ne avevo il primo che l'ho acquistato, sono io, da Conforama, era appena uscito, ho pagato allora 99 euro, mi avevo cambiato la colla, questo sto parlando prima di morire mamma, nel 2009 l'avevo comprato. E si vedevano tutti, anche come si chiama, perché cosa stava succedendo? Con digitale già stavano, io l'ho comprato perché avevo commesso le antenne con digitale terrestre. E dove, come si chiama, eravamo ritornati col metodo di prima, che la televisione non si vedeva più, di sera peggio ancora si andavano completamente i canali. E quindi, temendo poi che c'era il tempo stabilito che dalla parabola levavano i canali, li oscuravano, sono andato, ho detto signor Vittorio, mi è uscito questa roba qui, sono andato a Conforama e me l'ho comprato, questo è il secondo che ho, perché l'altro l'aveva bruciato il fulmine, poi l'ho comprato preciso identico di nuovo, e si vede tutto già, però Vidiolina e Sardegna 1 non la vedo lì. Oh già, io devo lasciare là che c'è gente a casa e vado un po' con loro, là. Ci sentiamo dalle prossime linee, buon lavoro per domani, buona serata. D'accordo già, ciao, salutoni anche in casa e alle prossime. Io lascio in quei pomeriggio, se lo lascio, e così se andrà con uno chiacchieriamo ancora, altrimenti ho preso anche indolizzito, me ne vado a letto subito.